Mine Vagante di Federico Taddia. Buona domenica, buon pomeriggio da Federico Taddia. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 con Mine Vaganti, l'appuntamento settimanale della domenica pomeriggio. Vi accompagniamo lungo la strada se siete in viaggio o a casa vostra, se siete tranquillamente a casa, avete voglia di stare con noi con la radio accesa alla scoperta di un'Italia molto legata alla quotidianità, un'Italia più nascosta, meno raccontata. Lo facciamo attraverso le nostre storie, ma non solo. In ogni puntata ho un ospite con me in studio, ospite non sconosciuto, la sua faccia è nota, il suo nome anche, è stato protagonista di un paio di film, di docufilm, la sua anche si è guadagnata anche un paio di copertine su testate nazionali, ma ci piaceva averlo ospite perché sì, la sua storia, la sua vita, il suo lavoro è legato quotidianamente, giorno per giorno, a quello che succede in strada, a una lotta che non è una lotta personale, anche se è una sfida, ma gioca con un team, è un gioco di squadra, è un gioco importantissimo, una lotta contro la polvere, contro la cocaina. Do il benvenuto ad Angelo Langè, poliziotto della sesta sezione squadra mobile di Milano e autore del libro Vite in polvere, cronache quotidiano di uno sbirro antidroga in prima linea sulle strade di Milano, edito da Rizzoli. Ciao Angelo. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie per essere qua con noi in questa domenica, dove oggi eri in vacanza. Riposo, beh, è vero, cioè, la parola giusta. Angelo, è difficile impostare una chiacchierata con te perché la tua storia è incredibile. Facciamo il riassunto di quello che hai fatto e di quello che stai facendo soprattutto. Ma lavorativamente parlando, vabbè, io mi sono arrivato nell'86, ho fatto il mio percorso da ausiliario e quindi sono stato 2 anni al reparto mobile, dopodiché dopo il corso effettivo ho fatto le volanti, la squadra volante, poi sono stato alla Polmetro e dove lì mi sono formato come antidroga, diciamo. Dopodiché nel 2007 c'è stato questo esperimento di creare la allora UOCD, che è quella che poi è diventata adesso sesta sezione, che era appunto quella di raggruppare le varie persone in borghese che facevano questo tipo di attività. Esperimento che ha funzionato, tanto è vero che poi è diventato ufficiale nel 2009, è diventata sesta sezione. E quindi sostanzialmente noi contrastiamo lo spaccio in strada al dettaglio, cosa diversa dalle grosse indagini che vengono svolte, perché uno immagina, sì vabbè, vi occupate dei pesci piccoli e chi è che pensa ai pesci grossi? No, c'è una sezione che pensa anche a questa, che si occupa del narcotraffico con intercettazioni eccetera eccetera. Il nostro compito, che poi alla fine sono quattro gruppi nella nostra sezione, si occupa mattina, sera, pomeriggio e notte a contrastare lo spaccio in strada, quello che poi leggiamo nella cronaca. Oggi non parleremo dei massimi sistemi legati alla cocaina o all'eroina, ma entreremo proprio nel giorno per giorno, nel tuo giorno per giorno, nelle tue storie, che sono anche le storie che hai raccontato in un libro, storie che tu sei anche writer, poi ne parleremo. Sbagliato termine? Esatto. Street artist, scusa. Per carità, che è un'altra categoria che poi si creano casini di titoli che mi voglio appropriare, no, che no, no, no, no, no, che no, non è. Lungi da me. Guarda, Federico, un secondo per sottolineare questa cosa. Io ho sempre dipinto, tra l'altro avevo l'indirizzo del liceo artistico, dopodiché per fattori un po' così anche personali, familiari, ho dovuto abbandonare con questo rammarico, però va bene così. Niente, ho sempre dipinto quadri, cose. Da 2 anni, 3 anni circa a questa parte, vivendo la strada tutti i giorni, mi sono accorto ovviamente del fenomeno che credo che tutti siano accorto, da non confondere con quello che è l'imbrattamento. Uh-huh. Mi sono reso conto che c'erano in giro dei disegni, dei dipinti, dei graffiti che erano assolutamente fighissimi, no? E quindi si è accesa un po' questa lampadina da dire, ok, però sarebbe figo, no, far vedere le cose che magari ti limiti a fare in un quadro, che se ti va di lusso qualche amico te lo acquista, per non star poi lì diventare armato e di entrare nel giro delle gallerie di qua di là, sfruttare, diciamo, questa forma artistica molto contemporanea e molto vicino al linguaggio dei giovani per trasmettere, comunicare e far sfogare, se vogliamo, anche i ragazzi, però incanalizzando il discorso nella legalità, nel senso in spazi assolutamente autorizzati, pensando anche magari alla riqualificazione urbana, con dei messaggi, con degli eventi a tema che possono essere affrontati man mano che si decide quali fare, no? Poi insomma tenteremo di vedere via radio anche alcune delle tue opere, ma torniamo al tuo lavoro. E tu sei stato protagonista protagonista di due produzioni video, tutte e due a firma di Roberto Burchielli. Esatto. Un docufilm, il primo Cocaina, andato in onda su Rai 3, dove di fatto a telecamera accesa hanno seguito il vostro lavoro giorno per giorno. Una cosa simile è stata fatta anche per il film Sbirri, con Raul Bova, che è diventato carabiniere, che è diventato poliziotto, scusa, con voi, seconda gaffe dall'inizio della puntata. attenzione, qua è un campo minato. Angelo, tu lavori in borghese. Sì. E tu devi cercare di seguire di nascosto delle persone che sono gli spacciatori, ma il tuo volto è noto, tu hai messo in piazza la tua, quello che fai, le tue azioni, il tuo modo di operare. Com'è cambiata la tua vita da quel giorno? Se è cambiata, e cos'è servito far vedere, accendere le telecamere al vostro operato? Ma guarda, è cambiato, fortunatamente è cambiato solo in meglio e non in peggio, nel senso, l'aspetto positivo è quello che niente, io vedo ad esempio il riscontro su Facebook o in email, in internet, dove c'è gente che mi scrive sostanzialmente per raccontare proprio anche la propria esperienza, la propria sofferenza, in quanto persone a volte vicino a gente che ha questo tipo di problema. Quindi il modo, insomma, la possibilità di essere stato visibile e in quei contesti ha dato modo di, tra virgolette, identificare una persona con cui potersi sfogare, potersi esprimere. Per quanto riguarda il punto di vista del lavoro, invece, assolutamente non è cambiato nulla, nel senso che quando noi monitoriamo una situazione, ovviamente non ci mettiamo mai lì a guardarla di fronte a loro, quindi noi tendiamo sempre e comunque, ma è sempre successo anche prima, di non farci vedere. Quindi noi vediamo loro, ma loro non devono vedere noi. Quindi quando ci vedono è sempre, ormai è troppo tardi per loro, perché è il momento in cui noi dobbiamo andare lì a mettergli le manette. Tieni presente che non possiamo rischiare di farci vedere, perché quando stai guardando una situazione non è detta. Ti faccio un esempio: se un potenziale spacciatore sta seduto fuori un bar e tu devi continuare a guardarlo, ci sono dei momenti in cui può essere avvicinato da persone che non sono dei clienti, magari sono degli amici, e ci sono delle volte che non hai la visuale perfetta, e quindi lì devi, tra virgolette, azzardare ad esporti passando, ad esempio, no, il più vicino possibile per cercare di vedere il movimento. Queste azioni qua devono essere ridotte al minimo indispensabile, perché rischi che se passi davanti e quello non era il momento propizio, lui magari ti ha visto, tu non ti puoi permettere di ripassare un'altra volta. Poi beh, obiettivamente non è che io adesso sono io l'unico incontrastato antidroga di Milano, no, voglio dire, ci sono tantissime persone che lo fanno nel mio gruppo e negli altri gruppi, quindi può anche essere che, anche se sto un attimino defilato e mi faccio vedere all'ultimo momento, va bene lo stesso, insomma. Entriamo nel clima del tuo lavoro, della tua quotidianità. Abbiamo estrapolato alcune scene dal film Cocaina e ve le facciamo vedere via radio. Ti ho detto che era mio, ragazzi. Lo sentivo oggi, fratello. Sì. Sentivo io, fratello. Vai a dare una mano di là, fermare qualche tossico. Dammi un paio di manette. Ah, questa è coca. Questa è coca. Sì, coca. Queste? La Maria e la bamba, di chi è mia? A fumare. A fumare, sì. Per profumare la casa? Di chi è questo? No. Questo di chi è? Ma tu fai vedere una cosa? Ma questo di chi è? No. Le fai tu le confezioni? Sì, la faccio io. Ma hanno un peso preciso o a caso? 0,405. A quanto le vendi? 50. Ma ogni cosa che apro sotto un po' di sto qua. Una donna peruviana. Io faccio mi lavoro, ho fatto sempre mi lavoro. Guarda la cantina che lavoro facevo. Dico, con quale serenità. No, ma è bello, con quale serenità. Cioè, ho detto che l'ho fatto per bisogno, per aiutare la mia famiglia che non mi abbassa. Io non riesco neanche a vivere a me. Io mi sono messa da sola, non è che mi hanno buttato una pistola, mi hanno preso. Certo, hai deciso tu. Suggestioni, frasi, anche copioni, perché nel libro racconti di frasi fatte che ti vengono ripetute tantissime volte. Siamo in diretta, se anche voi che siete in ascolto avete considerazioni o avete domande particolari, domande, curiosità anche, semplici curiosità sul lavoro di Angelo, potete intervenire in diretta attraverso il numero verde l'800 24 00 24, oppure via sms al 349 238 6666. Angelo, poi parleremo del rapporto che si instaura, se si può parlare di un rapporto che si instaura con lo spacciatore o con il consumatore. Prima però devo farti una domanda. Prima ti ho visto arrivare col tuo scooter, con la tua Vespa, no? Vespa, sì. Ipercolorata, credo sia l'unica a Milano, quindi sei veramente facilmente riconoscibile. Sanno chi sei, sanno quello che hai fatto, sanno quanto impegno ci metti. Non hai mai paura? No. Cioè, nel senso, io faccio il mio lavoro, cerco di farlo onestamente, e quindi credo che poi se tu sei onesto, fai il tuo lavoro onestamente, la gente lo sa, se ne accorge, quindi sa che hai fatto il tuo, quindi non hai niente da cui imputarti. Anzi, a me capita sovente che se vedo in giro una persona che ho fermato come acquirente o anche come spacciatore, mi capita anche di fermarmi a salutare. Ovviamente, io voglio dire, cerco di capire, no? Nel senso, quando lo guardo, quello si gira dall'altra parte e mi vuole evitare, ok. Se invece vedo che ci sta il saluto, voglio dire, mi fermo anche a salutare. Mi è capitato anche di arrestare ultimamente una ragazza, e un ragazzo a cui poi ho regalato il mio libro, perché siamo rimasti lì a parlare ed era una realtà proprio di quelle che ne parlavamo prima, no? Purtroppo vengono identificate nella normalità, perché la normalità purtroppo adesso non ha contaminato solo quelli che consumano, ma purtroppo anche quelli che spacciano, perché sta sfuggendo un po' la situazione di mano, no? Quindi non si vede più lo spaccio proprio solo legato a contesti criminali e o a quartieri particolari, ma ha contaminato anche gente normale che non riesce più a starci proprio dentro con il suo uso quotidiano, e quindi cerca di far uscire quell'aliquota lì di soldi che gli serve per mantenere il suo vizio, vendicchiando, non tanto consapevole alcune volte di essere in un contesto di spaccio. Invece pensa che magari darla all'amico o al conoscente non sia spaccio, cosa che invece lo è esattamente il contrario. Parleremo subito dopo la viabilità dei contesti che frequenti ogni giorno col tuo lavoro. Mine vaganti. Le ho trovate? Guarda dove sono le buste. Guardale. La neve a Milano non è più un'emergenza meteorologica, ma sociale. La neve qui è la coca. Non è più la droga riservata a pochi, ai VIP. È più democratica. La prendono tutti. Da domani inizieremo il nostro servizio. Saremo appresso a questi poliziotti. Angelo, Totò, Paolo, Silvana, Antonello, Simone. Fermo, polizia! Era il trailer del film Sbirri, che passerà tra pochissimo anche nelle televisioni, non so la data esatta, per settembre, i primi di settembre. Sì. Perfetto film che ha visto protagonista Angelo Langea insieme ad alcuni compagni della squadra mobile di Milano. Angelo, c'è una parola che rientra sempre più spesso quando si parla di cocaina, quando si parla di eroina, ed è normalità. Ed è la normalità la cosa che sconvolge anche te, nel senso che non è più una cosa per VIP farsi di coca, come era, no, un contesto sociale antico. Una volta si diceva così, si pensava così. Io frequento le scuole, si vede la droga nelle scuole, ma vedi anche il taxista che ti viene a prendere e che sicuramente ha appena pippato, e noti l'insegnante e sai che il muratore per fare il doppio turno si deve fare. Qual è la situazione che vedi tu? Quello che hai appena detto, guarda, che purtroppo ha contaminato tutte le classi sociali, ecco, quindi adesso non ci si sorprende più se ti capita di fermare l'acquirente ed è una casalinga piuttosto che un falegname, un commerciante, un medico, un professionista, cosa che invece prima si era legati al professionista o al malavitoso. Invece adesso tutte le classi sociali, non tutti fortunatamente, quindi che poi ti dica che lo studente lo prende per mantenere i ritmi, insomma, no, è abbastanza disarmante come situazione. E poi il discorso che ti ho detto prima, quello della normalità nel contesto dello spaccio, che si è allargato molto, quindi lo spacciatore non è solo più nel contesto criminale, ma è anche la persona normale che anche per arrotondare, oltretutto, voglio dire, si mette a vendere lui. Ecco, voi avete sdoganato però la parola sbirro, no? Che una volta aveva un'accezione, esatto, negativa, è vero, invece è un'accezione per voi positiva, informale, no? Lo sbirro è quello che c'è. Ma infatti, perché nei film o in giro, che è abbastanza dispregiativo, no? È sempre stato usato. Invece, boh, io non mi offendo, sinceramente. Speriamo di avere un po' così smentito il termine. Quindi adesso uno non. Nel tuo libro Vita in polvere si legge spesso, però cosa dice lo sbirro allo spacciatore e soprattutto cosa dice lo sbirro al consumatore? Cioè, prima parlavi di un rapporto che a volte anche si nasce e si crea, però il primo impatto qual è? Riesce a non dir niente al consumatore, per esempio? Ah, ma guarda, il discorso del consumatore, che essendo appunto non legato in un contesto criminoso, non è abituato alla polizia. Quindi immaginati nel momento in cui ha appena fatto lo scambio, si sta allontanando, pensa anche che gli sia andata tutta bene, perché uno si aspetta sostanzialmente che viene fermato nel momento in cui quello gli sta dando. Magari cosa, si sposta un attimo, sempre guardato da noi, giusto il tempo perché si dividano, poi lo fermi nel momento in cui pensa di averla fatta franca, cosa fa? Un salto di 7 metri. Cioè, e quindi perde il respiro per qualche secondo, dopodiché cerca, secondo me va in una confusione totale, poi piano piano cerca di realizzare quello che sta succedendo. A parte il momento di panico, così, che ovviamente noi in borghese, tra l'altro, neanche con le facce così splendide, voglio dire, rimane un attimo disorientato e cerca di capire se è un'aggressione o un fermo di polizia, perché quel momento lì magari tu gli faccia vedere il tesserino, che addio, ecco, lì può servire il fatto di conoscermi, perché con uno si rincuori, tranquillizza subito, perché dice ok, è solo la polizia, esatto. Dopodiché, secondo me, comincia a fare proprio un esame di quello che gli può succedere. Quindi, scartata lì l'idea che ovviamente l'arresto, perché è consapevole di aver raccontato il quantitativo giusto per lui, comincia a pensare allo sputtanamento, nel senso se poi gli arrivano gli atti a casa, se lo viene a sapere la fidanzata, i genitori, a seconda di chi sono, se ha la macchina o la moto, se gli ritiri la patente. Quindi, secondo me, in 2 secondi quello deve realizzare tutto e quindi questo potrà probabilmente, quello che io mi auguro, serva, no, a fargli capire che può succedere anche lui. Perché uno degli aspetti che io noto è quello che sembra sempre che il discorso della droga riguardi gli altri, no? Vuoi che se lo fai tu non ti fermano, se la consumi tu no, ma tu sei più splendido degli altri perché riesci a gestirla. Ma no, a quelli che stanno di fianco a te no. E quindi sembra sempre un problema degli altri, invece bisogna stare molto attenti, perché può essere molto vicino e purtroppo non è così difficile o impossibile che accada, e bisogna giocare molto sulla prevenzione. Parleremo di prevenzione. 349-238-6666 per i vostri sms se avete qualche domanda per Angelo, oppure 800-24-0024 per farlo attraverso il numero verde. Angelo, cambiamo completamente argomento per qualche minuto, ma è un po' una caratteristica di Mine Vaganti, e per entrare nel nuovo argomento chiediamo una mano a Corrado Guzzanti. Va sotto? Chi è? Con le pinne? Chi è? È Subacqui! Su Reducational Channel! Subacqueria, la storia della subacqueria, prosegue la nostra inchiesta su Reducational Channel. Lo sapevate? Malgrado le moderne tecnologie, il record in apnea è stato stabilito nell'antichità da Sifone di Mileto, che si fece cronometrare da Eraclio di Pilo. Lo sapevate? I discendenti di Eraclio di Pilo stanno ancora lì a cronometrare. Incredibile antichità subacquea su Reducational Channel. Qui insomma ringraziamo YouTube, che fa ritrovare alcune chicche del passato televisivo, e così ci introduciamo nel mondo dei subacquei, come direbbe il buon Guzzanti, per presentarvi una bellissima storia. Lei presiede, ha ideato l'unico ufficio italiano con questo nome, Ufficio Beni Artistici Sommersi, e ha inventato anche un secondo ufficio, che è la Direzione Ufficio Furti e Recuperi con i Carabinieri, recuperi dei beni artistici. Diamole benvenuto ad Alessandra Cabella. Ciao Alessandra. Ciao Federico. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Oggi è giornata di vacanza anche per te, o hai messo da parte bombole e pinne per noi? Ho messo da parte bombole e pinne, ma fino a ieri sera, tarda serata, eravamo a San Fruttuoso di Camogli a celebrare la festa annuale del Cristo degli Abissi. Ecco, Cristo degli Abissi, che tu conosci molto bene e che insomma ti ha anche forse in parte cambiato la tua vita professionale. Sicuramente, sicuramente, perché io sono funzionario della soprintendenza per i beni storici artistici e reti antropologici della Liguria, e avevo fra il territorio, fra i vari comuni del territorio in cui svolgo compiti di tutela, anche Camogli. E quando mi hanno detto che si trattava di andare a fare la pulizia annuale di questa statua sommersa, che ha 56 anni, è relativamente recente, però tutto quello che sta sotto l'acqua comunque viene aggredito dai microrganismi che popolano l'acqua e che si attaccano anche con molta forza, ecco, a questi materiali subacquei. E insomma, quando c'è stato il momento di andare a fare la manutenzione annuale con i vigili del fuoco nucleo sommozzatore di Genova, io sono andata e non avevo il brevetto e ho sofferto da morire, perché sì, sono scesa giù in apnea, li vedevo che lavoravano su questa statua che è alta 2,5 metri e poggia su un fondale di 18 metri. Mm-hmm. Quindi, in andando giù in apnea, si vedevano queste braccia aperte, tutti questi uomini sommozzatori, che come una beauty farm proprio, no? E chi li limava lì, e chi li grattava lì, e chi con una pistola binaria sparacqua, un'idropulitrice, faceva partire le serpole, e chi invece con una spazzola adatta puliva. Insomma, mi sono sentita talmente attratta, che io devo andare, devo fare, e ho preso il brevetto. E non solo, quindi, poi mi sono innamorata di tutta l'altra metà del mondo che mi mancava, cioè il mondo subacqueo, e poi così pian piano ho creato anche questo istituto, questo ufficio che si chiama Ufficio Beni Artistici Sommersi, col beneplacito naturalmente del mio soprintendente, eccetera, perché ho pensato, ma perché bisogna sempre parlare solo di archeologia subacquea? Non è solo archeologia quello che sta sotto l'acqua. Certo, il metodo di indagine è archeologico se si va a toccare il fondale, no? Se si vanno a fare gli scavi, quello assolutamente. L'archeologia subacquea è una scienza, fra l'altro io sono genovese, l'archeologia subacquea è una scienza che è nata in Liguria proprio con Nino Lamboglia una 50 di anni fa. Però ho detto, caspita, il Cristo degli Abissi non è archeologia, tanti reperti che troviamo, tanti relitti, ma non sono archeologia, roba dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, ma anche roba dell'epoca moderna, sì, insomma, dove non si può più parlare di archeologia. No, infatti è un'altra cosa, però ha bisogno comunque di protezione, di cura. Come no? Sembra, scusatemi la battutina, di aver scoperto, tra virgolette, l'acqua calda. sì, certo, ha bisogno di cura, di manutenzione a livello fisico, perché comunque, come dicevo, vengono aggrediti da concrezioni. Ora, il Cristo, noi abbiamo necessità di pulire una volta all'anno, ma va sicuro che dopo già un mese che noi andiamo giù c'è già un velluto sopra, anche solo dopo un mese. Figuriamoci quando si scoprono degli elementi che stanno sott'acqua da 500 anni. E quindi è proprio una squadra a tua disposizione, nel senso, quando trovate un sito che ha bisogno di pulizia, sì, di restauro, di una di sistemata, di monitoraggio, di promozione, ho delle persone validissime, anzitutto i colleghi dello staff, servizio tecnico di archeologia subacquea della consorella soprintendenza per i beni archeologici, che sono veramente cari, si prestano volentieri, ma poi soprattutto ho la collaborazione, posso contare sulla collaborazione dei vigili del fuoco nucleo sommozzatori, ma anche dei carabinieri subacquei, poi c'è anche la guardia di finanza che ha un reparto sommozzatori, quindi devo dire che di tutto il mio lavoro, prima hai citato anche l'ufficio furti e poi c'era tutela sul territorio, i restauri, ma appena ho messo la luce in acqua veramente hai trovato un mondo sommerso, un interesse da no, ma anche un interesse, cioè i giornali che mi cercano per chiedermi, tante volte magari facciamo libri, pretendiamo restare, facciamo convegni e siamo noi che andiamo dai giornalisti dicendo per favore ci promuovi sta cosa, con fatica, invece qua da quando si parla di acqua cioè invece proprio vedo un grande interesse, cioè questo interesse dei sub, sia per diletto che vanno solo a vedere i pesci, che vanno a fare i pesci fra i pesci, sia invece quelli che amano andare a vedere i relitti. Così, tra l'altro, insomma, leggevo che il Cristo degli Abissi è il sito subacqueo più visitato del Mediterraneo, sì, con 5.000 immersioni all'anno, sì, quindi veramente un pellegrinaggio. Guarda, se tu vai là una domenica, veramente sembra di andare a fare lo struscio nelle grandi strade delle grandi città, fare shopping, perché ti prendi le pinnate mentre fai decompressione di quelli che scendono, guarda, bisogna stare attenti, è davvero un sito nei giorni festivi molto frequentato, perché comunque c'è una grossa devozione. C'è una grossa devozione, comunque i morti in mare, pensiamo anche agli ultimi recenti, ieri sera alla festa del Cristo degli Abissi, per esempio, c'era la vedova e il figlio degli ultimi due, purtroppo che sono andati, diciamo, a nuotare negli abissi dell'infinito, certo, ecco, gli ultimi due. Comunque morti, ma il Scritto degli Abissi è stato messo da Duilio Marcante, che è stato il più grande sub del Novecento, in memoria del suo amico Dario Gonzatti, che era morto in mare, e comunque è stata un tributo per tutti i morti a qualsiasi titolo, sì, in mare. Insomma, ecco, credo che è il valore della memoria, e voi questo valore, anche solo mantenendolo pulito, vuol dire mantenerlo vivo. Alessandra, ti ringrazio davvero, perché tu sei una mina vaganti. Chi ha queste intuizioni per noi sono mine vaganti. Spero che la tua sia anche un'esperienza replicabile in altre zone d'Italia, perché credo che è quello che state sperimentando lì possa essere replicato in altre località. Siamo fortunati, abbiamo molto da divertirci, ma ho anche contatti comunque con colleghi di Roma, dell'ICR, di altri istituti, per cui anche francesi recentemente con il Trasme, quindi sono brava Alessandra. Dove c'è da lavorare, da divertirsi, siamo in pista. Buon tuffo, grazie. Ciao, grazie a te. A voi. Mine vaganti. Sono i Calibro 35, è una formazione milanese che usano il genere poliziesco come materiale del loro sound anni 70, quindi l'abbiamo utilizzato, tra l'altro la nostra sigla è stata fatta da loro, quindi è un gruppo che ci piace, ci sembrava anche la colonna sonora ideale per Angelo Langé, autore del libro Vite in polvere, cronache quotidiano di uno sbirro antidroga in prima linea sulle strade di Milano, ospite oggi qui a Radio 24. I vostri messaggi che stanno arrivando numerosi, 349-238-6666 per gli sms, 824-0024 invece il numero verde. E Vincenzo, per esempio, Angelo ci chiede se hai mai fatto anche il lavoro da infiltrato, nel senso a volte capita di dover far finta di essere qualcun altro rispetto a quello che si è, o dovevi far finta di essere, che ne so, un consumatore per avvicinare lo spacciatore? No, la qualifica di infiltrato è proprio un'altra categoria. Nel senso, il massimo che sono riuscito a fare è se ad esempio in una realtà tipo quella nei campi, dove ci sono degli extracomunitari che vendono all'interno di questi campi a 50 metri, dove devi passare dei pali che ti controllano visivamente per capire se è un tossico di vento o no, di mettersi in gruppo con altri acquirenti per riuscire ad arrivare là. Però assolutamente no, non è neanche possibile, insomma, fare l'agente provocatore. È una qualifica che c'è un corso ben prestabilito da fare, eccetera eccetera. Quindi non è assolutamente il nostro caso, anche se di fatto devi essere un po' attore, cioè devi far finta di essere lì per caso, devi passeggiare guardando vetrine, che insomma attraverso la vetrina però vedi oltre, vedi altro. Ah vabbè, dai, questo è l'aspetto diciamo simpatico, divertente, nel senso che poi dà sfogo alla tua capacità di confonderti, no? Di essere anche camaleonte, perché ovviamente, come dicevamo prima, tu devi magari anche controllare una situazione per più di qualche minuto senza essere visto. E sembra assurdo, ma uno magari pensa all'idea di camuffarsi, rischiando magari di diventare troppo eccentrico e quindi poi di fare l'effetto contrario, perché se poi ti camuffi troppo, quello ti sgama perché ti metti la maglietta troppo colorata piuttosto che. Quindi cerchi un attimino di uniformizzarti il più possibile agli altri. Beh, sì, certo, ci vuole. Quindi tu pensi di non farti notare quando viaggi con la tua Vespa colorata in quel modo? No, ma quella è la mia personale, non è di lavoro, quindi voglio dire. Secondo me lì ormai quando sono con quella sono fuori servizio. Vida in polvere, il tuo libro, racconti storie, cosa che facciamo anche noi a Mine Vaganti. È un libro molto bello perché è scritto con ritmo quasi cinematografico, si trovano anche curiosità sulla vita di Angelo, che ne so, la prima volta che è salito su una volante ha segnato la fiancata, per esempio. Questo è... che figura di puntini, puntini. Okay, vabbè, non approfondiamo. Tra le storie che hai raccontato, so che c'è quella di Marco, che è praticamente significativa, che ti ha particolarmente colpito. Ce la puoi riassumere? Sì, guarda, quella lì è stato allucinante perché vabbè, era in un ragazzo di 18 anni, quindi un ragazzo di 18 anni sorpreso due volte a comprare cocaina nel giro di due settimane. E quello era disarmante, il fatto che la prima volta che è venuto in questura con noi, dove al momento non aveva i documenti e quindi è venuto negli uffici per essere segnalato, identificato eccetera eccetera, lui dopo due minuti di disorientamento subito ha detto vabbè, ma tanto io adesso esco e vado a comprare dell'altra. Ma la determinazione che aveva un ragazzino di 18 anni, voglio dire, mi ha spiazzato una mela assoluta. Quindi mi sono proprio cadute le braccia in quella circostanza lì, perché voglio dire, mi aspettavo che almeno l'età, la poca esperienza, quello che era, no, fosse un po' dalla mia parte, invece assolutamente no. Il risvolto positivo però è stato che quello dopo due anni, quello negativo è che la settimana dopo l'ho rivisto, l'ho seguito per 5 minuti e l'ho visto comprare ancora cocaina. Lì peggio ancora. Dopodiché, non ho più avuto sue notizie per due anni, dopodiché mi ha contattato su Facebook e prima ha trovato un po' uno stratagemma, per probabilmente aveva paura che se si fosse qualificato subito non l'avrei ascoltato, sentito. Quindi quando ci siamo invece poi sentiti mi ha detto chi era, e guarda, io me ne sono proprio accorto dalla voce, no, da come parlava, e ha chiesto se poteva incontrarmi, no, per parlare un attimo. Quando ci siamo visti, con grossa soddisfazione mi ha detto che era riuscito a uscire da quel tunnel lì. Mi ha raccontato un po' le dinamiche, che immagino che siano quelle dinamiche che bene o male purtroppo passano tutti. Quindi proprio quello che ha fatto vivere alle persone che aveva accanto, tipo genitori, nonni in quel caso là. E quindi poi vederlo, ma dopo due anni, per fortuna con la luce negli occhi che non avevo visto due anni fa. E quindi a 20 anni, quindi poi ha ritrovato questa gioia di vivere e ha capito che non era proprio caso di fare lo splendido. Ma se poi ritorno a far mente nel locale, nel momento in cui lo guardavo sui navigli che era in balia degli spacciatori, veramente era allucinante sto ragazzino che girava da in una via all'altra, probabilmente non voleva raccimolare anche qualche soldo, e guarda, sembrava proprio una foca quando con la testa in alto cerca di tenere in alto il pallone, e guarda, mi ha fatto una tristezza allucinante. Per fortuna, ecco, guarda, sinceramente lui poi mi ha detto che la molla è stata un po' anche come è stato trattato a livello umano e personale da noi, perché la seconda volta che è venuto in questura io sono stato giù un po' pesante, nel senso che me lo sono tirato da parte, ho proprio voluto cercare di capire il perché. Hai fatto l'educatore in quel caso. In quel caso lì diciamo che ho dedicato un po' di tempo proprio per sentire le ragioni. Si vede che lui in quel momento là non era sufficiente la sua fidanzata, i suoi genitori. Probabilmente sentire una delle situazioni che lui lo vede come dall'altra parte della barricata, così propenso ad ascoltarlo, gli ha fatto scattare qualche cosa che per fortuna insomma l'ha messo sulla... Insomma, sono le soddisfazioni anche. Una delle soddisfazioni. Nel libro dice: sì, a volte sembra di poter svuotare il mare di cocaina che c'è a Milano con un bicchierino, no? Quindi pare quasi una battaglia persa in partenza, ma per fortuna succedono anche queste cose che credo ti diano la carica quotidiana poi a te, a tutto il tuo team. A tutti quelli che fanno questo lavoro, certo, assolutamente per importante. Angelo, ci fermiamo e cambiamo ancora argomento. Ormai hai capito come funziona il nostro programma. Certo. E facciamo un viaggio lunghissimo perché ci stiamo per collegare in diretta con l'Amazzonia. A lei. Questi sono i ritmi dell'Amazzonia che ci aiutano a raccontarvi una bellissima spedizione. Lei si chiama Paola Catapano, è una giornalista scientifica, lavora al CERN di Ginevra, ma ha ideato questo progetto che si chiama Mini Darwin, che è far riscoprire un po' il mondo dal punto di vista naturalistico ai ragazzini, coi bambini. Ha già realizzato due spedizioni, una alle Galapagos, l'altra attraverso invece invece i vulcani italiani. Adesso, in questo che è l'anno mondiale della biodiversità, ha chiamato i suoi collaboratori, che sono questi 5 bambini in questa spedizione che la seguono in questa avventura, e per capire che cos'è la biodiversità li ha catapultati in Amazzonia, e noi ci stiamo proprio collegando con lei. Ciao Paola. Ciao. Ciao, qua è buon pomeriggio, lì è ora di pranzo più o meno, credo. Sì, è l'una, okay. In questo momento è l'una, ma non siamo in Amazzonia ancora, ci arriviamo stasera, siamo su un'isola, quella dove sbarcò Darwin quando vide per la prima volta il Brasile lungo il suo viaggio di naturalista intorno al mondo nel 1832, l'isola si chiama Fernando de Noronha. E avete già operato da giornalisti lì o è solo una tappa di passaggio? No, assolutamente è una tappa importantissima perché questo è un hotspot di biodiversità, molto diverso dall'Amazzonia, però perché biodiversità più che altro marina e molti uccelli, molte specie endemiche, molte specie in pericolo di uccelli. E abbiamo fatto delle cose interessantissime con delfini e tartarughe marine, che sono specie protette, in pericolo, iscritte sulla lista rossa dell'Unione Mondiale della Conservazione della Natura. E Paola, con mine vaganti andiamo alla ricerca di persone che hanno idee apparentemente folli, bizzarre, stravaganti, innovative. E la tua ci piace, nel senso che tu stai facendo una spedizione scientifica, ma hai scelto come colleghi un gruppo di bambini. Sì, i bambini in realtà sono i veri scienziati. Io ho lavorato con scienziati, anche premi Nobel per tanti anni al CERN, e quello che mi ha sempre colpito di loro è che sono rimasti dentro davvero bambini. La molla principale di uno scienziato è la curiosità, e la curiosità, se uno la perde, poi non è più bambino, se invece gli rimane diventa uno scienziato. E quindi perché no divulgare la scienza attraverso la curiosità, l'entusiasmo, la freschezza e anche l'intelligenza di questi bambini, che sono veramente il veicolo più efficace per trasmettere messaggi scientifici al pubblico in generale, che poi è il mio lavoro e anche la mia passione. Ecco, avete avuto a che fare in queste ore con le tartarughe. Cosa hai visto negli occhi dei bambini che guardavano le tartarughe? Che storia hanno raccolto? Allora, è una storia straordinaria perché abbiamo visto intanto la nascita delle tartarughine, che nascono, come forse sapete, senza la mamma. La mamma, tutta la cura che si prende dei piccoli è quella di deporre le uova in un luogo adatto alla schiusa. Poi se ne va e dopo 55 giorni queste uova si schiudono. Si schiudono, in realtà le tartarughine piccole restano 3 giorni senza uovo sotto la sabbia, a qualche centimetro dalla superficie. E noi siamo andati prima con gli scienziati biologi marini del progetto Tamar, un progetto brasiliano di protezione delle tartarughe marine diffuso sul territorio, e siamo andati prima a vedere appunto queste buchette che loro proteggono e che segnalano per non farle calpestare, dove queste uova si schiudono sotto la sabbia. Si capisce che si schiudono perché viene fuori questo liquido, il vitellino dell'uovo, quindi l'uovo si secca, è pronto a essere rotto. In realtà però rimangono sotto la sabbia per 3 giorni. Dopo 3 giorni, nel momento giusto, noi siamo andati proprio in questo momento ieri pomeriggio e abbiamo visto 106 tartarughine appena nate uscire da questa buca e andare verso il mare, dirigersi verso il mare, fare qualcosa come 100 metri di spiaggia per arrivare in mare, un mare tra l'altro con onde piccolissime, sono state lunghe qualcosa come 5 centimetri massimo, avanzare come dei puffetti lungo questa sabbia, assolutamente sicure della direzione da prendere, proprio verso il mare, e poi entrare nell'acqua, essere sbattute, ribaltate continuamente dalle onde. I bambini erano lì che volevano, le avevamo assolutamente fatto un briefing, quindi non bisognava toccare le tartarughe, non bisognava mettersi lungo il loro percorso, che non è stato facile perché 106 sono... Sono tante. Mine vaganti. Mini Darwin, l'evoluzione raccontata ai bambini, e Mini Darwin, un'avventura sui vulcani, sono i titoli dei primi due libri pubblicati da Editoriale Scienza, e presto ci sarà anche il terzo al termine di questo progetto, a questo viaggio di divulgazione scientifica, Mini Darwin, ideato da Paola Catapano. Paola, le prossime tappe di questa vostra esplorazione quali saranno? Ecco, allora noi stiamo partendo proprio fra qualche ora per Manaus, che è la capitale dell'Amazzonia, di tutta la regione amazzonica brasiliana, dove ci fermeremo 4 giorni a fare una serie di seminari e un'introduzione alla ricerca in Amazzonia da parte proprio dell'Istituto di Ricerca in Amazzonia. E poi la parte vera, diciamo la parte principale del nostro viaggio, sono 10 giorni proprio nel cuore della foresta amazzonica, in una riserva che è la prima e unica riserva ecologica di sviluppo sostenibile, di protezione e conservazione della foresta, con una formula molto innovativa, perché oltre agli scienziati ci sono gli indios che sono quelli che conoscono meglio di chiunque altro la foresta pluviale e tutta la biodiversità che essa contiene, e che diciamo la foresta pluviale amazzonica è il posto dove c'è la maggior concentrazione di biodiversità al mondo e non va assolutamente persa. E questa riserva, che si chiama Manirawa, dove per arrivarci dobbiamo prendere una barca sul Rio delle Amazzoni e poi una serie di canoe, perché veramente in un posto sperdutissimo all'interno della foresta, lì scienziati e indios imparano l'uno dall'altro e cercano di massimizzare le chance di conservazione della foresta pluviale. E voi ci sarete, minidarwin.blogspot.com, il blog della spedizione, dove potrete seguire giorno per giorno o quasi quello che accadrà. Un'avventura che è iniziata però da un ristorante italiano che hai trovato lì? Sì, siamo nel ristorante del Cachorrao, nella Praia del Cachorro, che vuol dire la spiaggia del cane, una delle 12 fantastiche e uniche spiagge al mondo di questa isola Fernando di Noronha, dove ci sono le 3 più belle spiagge del Brasile, ma secondo me sono anche le 3 più belle del mondo, sulle 12, perché oltre a essere incredibili, perché in questo momento qui è inverno, sono 26 gradi e la spiaggia è tutta verde, e sembra la foresta di Tarzan, con palme, mangrovie, alberi di mango che crescono sulla spiaggia. Vabbè, un paesaggio incantevole, perché l'isola è vulcanica, è tipo Stromboli come colori, costruzioni, però col verde. Ecco, se il tuo obiettivo era scatenare la nostra invidia, ce l'hai fatta. Ciao Paola, buon viaggio, buona spedizione, grazie. Grazie, a presto, grazie a voi. Come polvere impazzita, perdo la mia identità, tutto perde il suo colore, resto appeso alla realtà. Quando sento che ci sei, tocco il paradiso. Ti fotte, una frase che non vuole essere una frase furba, non vuole essere un modo per apparire giovani davanti ai ragazzi. La droga ti fotte, tu l'utilizzi anche nella copertina del tuo libro, e raccoglie un po' un progetto educativo che tu da poliziotto stai portando avanti. E tra l'altro il brano che abbiamo appena sentito è un inedito, esatto, però legato a una iniziativa molto importante. Ma sì, allora, noi stiamo facendo una serie di iniziative che vengono richieste all'ufficio stampa della Questura di Milano, quindi voglio dire, ci sono delle scuole, degli insegnanti che dopo aver visto il documentario che hai detto prima, Cocaina nonché il film Sbirri, hanno deciso insomma di adottarlo proprio a scopo didattico nelle scuole, e poi richiedere il nostro intervento per un dibattito, che la trovo una cosa molto, molto interessante. Quindi prima fanno vedere il documentario, dopodiché chiedono un incontro con noi. Questa cosa poi credo che c'è il progetto di portarla avanti anche a settembre con un'iniziativa del comune, con l'istituzione, eccetera eccetera. Questi ragazzi qui, che sono gli Antigua, è un gruppo di ragazzi giovanissimi di 20 anni che ho avuto modo di conoscere e che mi hanno colpito moltissimo, a parte per la loro capacità, insomma, no? Per il fatto che a 20 anni si mettono in discussione, in gioco, prendendo una netta posizione, no, in merito a questo messaggio. Io lo trovo assolutamente figo. Tanto è vero che io dico, ma come, ragazzi, 20 anni, un gruppo musicale che dice, ma rischio anche magari di togliermi una fetta di fans perché, insomma, appoggio questa idea, invece loro sostengono a gran voce questa iniziativa. Il che questo deve essere preso come messaggio, no? Come esempio, perché c'è bisogno di esempio. Io credo che i ragazzi abbiano bisogno di esempi dai loro genitori, dalle persone più grandi, dei riferimenti, ma che possono anche essere esempi proprio dati da quelli che sono le istituzioni, mass media, i personaggi pubblici, dove purtroppo, esatto, leggendo i giornali ultimamente personaggi così molto amati dai ragazzi scoprono poi i ragazzi stessi che sono coinvolti, e quindi, esatto, tutto questo processo educativo rischia di crollare. Esatto, quindi se ci sono invece coetanei che sono di ispirazione, io non posso fare altro che appoggiare queste cose qua. Tant'è vero che anche per quanto riguarda il discorso artistico, quando abbiamo iniziato col dire del mondo della street art, perché io appoggio queste iniziative. A settembre, ad esempio, sarò in un in contesto urban al Circo Massimo di Roma, dove ci sarà una specie di accordo tra le istituzioni, il comune di Roma, una delegazione dei writer di Roma, per cercare di arrivare a capire che cosa si può fare di legale anche con questo modo di esprimersi. Quindi voglio dire, tutto quello che riguarda i giovani io lo appoggio a pieno ritmo. Insomma, è meritorio questo tuo operato. Stanno arrivando anche alcuni messaggi dove chiedono: ma un poliziotto non dovrebbe tenere segreti i metodi investigativi? Ma guarda, questo qui non è che sono dei grossi segreti, voglio dire. Anche quello che... si è visto in cocaina, si è visto in sbirri, cioè, voglio dire, devi rimanere lì, vedi che stanno facendo una cosa, dopodiché vai a fermare. Quello che ha ricevuto è quello che ha dato, non è che ci siano delle grosse attività investigative. Ovviamente, se dovessimo fare delle intercettazioni telefoniche o dei pedinamenti particolari, non lo vado a raccontare a lui o a te o a nessun altro. Allora, Angelo, la nostra mina vagante di oggi, tra i tanti ospiti che abbiamo avuto e che avremo, però poi anche a Radio 24 abbiamo delle belle mine vaganti. Hai pronta la sigla? Vai! Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci. Nessun luogo è lontano è il titolo di un nuovo programma che partirà domani su Radio 24. L'attualità internazionale vista e raccontata da Giampaolo Musumeci, che è qua con noi in studio. Ciao Giampaolo. Ciao, buongiorno. Tra l'altro stiamo parlando di cocaina oggi, tu domani parlerai di narcotraffico. Sì, partiamo dal Messico, perché in Messico c'è una pesante escalation militare che sta avvenendo. Nelle ultime settimane ci sono 4 giornalisti che sono stati rapiti dai cartelli. Il consolato di Ciudad Juárez e il consolato statunitense è stato chiuso venerdì per ragioni di sicurezza. L'America sta schierando migliaia di uomini al confine e i cartelli, i narcotrafficanti si sparano fra di loro per fette di torta sempre più piccole. Si combatte per imporre la propria polvere bianca sui vari mercati statunitensi ed europei, e poi cercheremo di capire come la polvere passa dalla Colombia, Messico, Africa e arriva da noi. Sfiorando anche il costume, no? Perché andrete a vedere anche il valore, l'impatto sociale che hanno i leader del narcotraffico nella loro società. Sì, perché c'è un aspetto che è drammaticamente affascinante, che è, diciamo, il fascino del narcotrafficante, che si circonda di lusso, che si costruisce delle pistole d'oro, che gira con macchinoni incredibili con il logo della sua gang, per cui dichiara alla polizia che lui sta passando in quella strada. Le modelle più belle messicane pare che cadano ai piedi di questi narcotrafficanti, hanno un santo, hanno delle tombe con l'aria condizionata, per cui è un mondo incredibilmente e drammaticamente affascinante. Cercheremo di affrontarlo, di capirlo meglio. Giampaolo Musumeci, insomma, è un collega ma è anche un amico, e io seguo da anni il suo lavoro, ve l'ho presentato come una mina vagante, perché tra l'altro fai anche il giornalista di guerra freelance, e ogni tanto parti, ci saluti, non sai bene dirci dove vai, chi frequenterai, insomma avresti mille aneddoti che poi credo racconterai anche, perché in questi non sono solo aneddoti sociali, ma è il tuo lavoro, quindi vai a raccogliere voci che solo tu riesci a raccogliere. La Somalia, giusto per dare un'immagine della tua attività. Sì, diciamo che tu dicevi prima mine vaganti, idee geniali. Più che un'idea geniale, andare in Somalia e starci 9 giorni è stata un'idea folle. Però con altri 2 colleghi abbiamo preso il fegato in mano, abbiamo cercato di fare questa cosa, e 9 mesi fa più o meno, era settembre, siamo riusciti a stare a Mogadiscio 9 giorni a cercare di raccontare cosa sta accadendo in questo paese, e quindi durante la settimana prossima cercheremo anche di mettere a frutto tutto questo lavoro per far conoscere l'Italia, un pezzo di storia che insomma ancora è lì in bilico, non è risolta, e succedono cose in Somalia ed è bene che la gente lo sappia. Quindi da domani in diretta, dal lunedì al venerdì alle 13.15 ci saremo. Grazie davvero Giampaolo Musumeci, Nessun luogo è lontano. E salutiamo anche Angelo Langè, ricordiamo Vite in polvere, cronache quotidiane di uno sbiro antidroga in prima linea sulle strade di Milano. E Angelo... Sì, no, volevo sottolineare solo una cosa, che purtroppo sembra che passino il messaggio che se non ti droghi, se non usi la cocaina, sei uno sfigato. Ricordiamoci che è esattamente il contrario, quindi è sfigato chi usa, e ricordiamoci, adesso non vuole essere retorica, che oltre che a farsi del male, cioè oltre che a fare del male a se stessi, si fa del male alle persone che ci sono accanto. Bisognerebbe essere un attimino un po' più attenti a queste cose, perché è una realtà che purtroppo io vivo, perché si parla sempre spacciatori e acquirenti, ma purtroppo ci sono anche delle persone che ci vanno di mezzo in entrambi i casi, le persone che sono vicine a queste categorie che soffrono senza colpe, Angelo, tante volte. Grazie a te e grazie a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a voi. Proprio per salutarci, il sito per contattarti: www.angelolange.com. Grazie. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia. Questa è la seconda parte di Mine Vaganti, dove solitamente setacciamo la cronaca locale. Anche questa per noi è una mina vagante, no? Quello che non viene raccontato, quello che succede nella nostra provincia e che spesso diventa suo malgrado notizia. Andiamo a cercare le notizie più curiose, più leggere, quelle anche divertenti, e apriamo con una carrellata di titoli. Però come sempre abbiamo un noto esponente per commentarle. Lui tra l'altro è un divoratore di cronaca locale, perché da lì trae anche spunto che poi ribalta in maniera surreale per le sue attività, e non solo di cabaret ma di teatro. Diamole il benvenuto, si trova a Fondi, a David Riondino. Ciao David. Eccoci qua. Ciao. Benvenuti a voi, siamo qui. Sono nel retro di una cucina davanti alla quale mi esibirò tra poco. Stasera giù un allegro gruppo di giovanotti che ha messo su una specie di zona spettacolo nella periferia di Fondi. Ma molto interessante. Hai il tuo nuovo spettacolo teatrale, tratta di cucina? No, è un caso, no, che ci sia una cucina. No, okay. No, siccome non c'era ancora pronto l'albergo, mi sono fermato qui dietro a aspettare che arrivassero dei giovanotti per portarmi. Questa è la quotidianità della tournée. Sì, molto bello, questo asfalto, queste seggiole sull'asfalto, molto poetico. Fermata provvisoria, il titolo dello spettacolo, questa sera, sì. Appunto a Fondi, siamo in provincia di Latina, se non erro. Mi sembra di sì. Ok, va bene, insomma, siamo così, un po' vaghi, sì. Dicono di sì. Sì, no, è meglio non essere troppo specifici. No, stiamo. Teniamo oggi è una giornata da tenere un po' le generali. Non entriamo nello specifico, non compromettiamoci. Ecco, cosa che faremo anche noi sfogliando la cronaca locale. Sono andato a estrapolare un po' di titoli da questa settimana. Partiamo da Pesaro, il resto del Carlino. Blackout, clienti in fuga dal ristorante senza pagare. È successo a San Bartolo. Non è male, al momento del conto è mancata la luce. Una metafora della società occidentale. E i titoli locali in genere si rispecchiano grandi tematiche quasi bibliche. In questo caso è l'Occidente che cerca di non pagare il suo conto con la società. La tecnologia avanzata ci ha dato molto, non sappiamo perché ce l'abbiamo. Di fatto siamo vicini al grande blackout e fuggiamo sperando che non ci chieda il conto. Ecco, a proposito di fughe e di conto, ti porto sul secondo titolo, ancora il resto del Carlino, ma siamo a Rimini. Vucumpra derubati dai turisti. Mentre loro scappavano dalla polizia, i villeggianti saccheggiavano gli stendini. È successo in spiaggia. Brutta scena, eh? Ma molto interessante. Questo è antico, però. Cioè, diciamo, allora è un'azione teatrale, probabilmente di un gruppo locale. Andrebbe studiato meglio, perché questo rimette in scena il problema del saccheggio imperialista nei confronti della colonia africana. Praticamente c'è l'Occidente che si getta sul mercatino africano e gli prende tutto quello che può per poi goderne lui, capisci? È sempre successo, quindi hanno semplicemente rimesso in scena la storia dell'immigrazione. Appartiene più al teatro che alla cronaca, qualcosa che hai detto. Andrebbe fatto più spesso. Questa tua capacità di legare il locale al globale è assolutamente stupefacente. Solo, è come nella fisica, esiste la particella minima che attraversa tutto, la trovi magari al bagno, ma è la stessa che sta venendo dal Sole o da Marte, non c'è differenza tra i locali di un bar. Allora, attenzione adesso, perché la prossima notizia è abbastanza scottante. Siamo a Olbia, l'Unione Sarda. In prima pagina il titolo dice: Padru, aiuto, i marziani mi bombardano col datraseno. Un pensionato lancia l'allarme, con l'astronave sbarcano a Cala Saccaia, e poi aggiunge: usano questo micidiale datraseno che tra l'altro rovina tutti gli elettrodomestici. È probabile, i marziani intanto esistono e sono l'unica cosa certa che ci si avvicina, insomma, a un'epoca nella quale stanno iniziando a rivelarsi. Ci fu un periodo di grande silenzio del marziano, e seguì una grande esposizione del marziano negli anni 60. Adesso stanno tornando, se noti sui giornali, ogni volta c'è 3-4 articoli. Il marziano torna e ha deciso di rendersi palese. Aspettiamo, credo, il 2012 perché si palesino tutti. I marziani in particolare ce l'hanno quei tardi. Questo è un dato che ti sfuggiva prima, ma sta emergendo. Davvero? In specifico con quelli di Olbia, perché pare dati gli ultimi rilevamenti cosmogonici, che c'è questa antipatia per quelli di Olbia e per i pensionati. Quindi attenzione, è un'indicazione che tutti quelli che hanno vissuto troppo isolati nelle zone di Isola sono attaccati dai marziani. Sì. Marziano ama la metropoli. Tra l'altro questa storia fa molto ridere leggendola, perché i poliziotti si trovano con questo datraseno che devono anche interpretare, non capiscono cosa sia. Ma certo, il datraseno, ma noi lo sappiamo benissimo, noi che abbiamo vissuto incontri ravvicinati lo sappiamo. E non andiamo a dire agli altri, ecco, ma ci attacchiamo ai sardi. La tribuna di Treviso, siamo a Montebelluna, quando comunque devi riempire la pagina, quindi vai a cercare notizie. In vetrina un manichino sul water, scoppia la polemica Montebelluna. Città, eh sì, anche perché la città è divisa per la trovata dei titolari del negozio, cioè la città discute su questa vetrina. È una città che ha sempre discusso su cose importanti, Montebelluna. Quindi è giusto che le diano questi argomenti anche su cui affrontarsi e competere. Io qui rilancio una cosa che ho iniziato a fare da un po' di tempo, ci aprirò anche un sito, foto ai manichini per premiare internazionalmente il manichino più bello, il manichino ha un momento in cui sembra umano. Sul water, no? Sì, anche sul water. Se metti tre manichini uno accanto all'altro, uno di loro sarà più simile, avrà qualcosa in più e gli altri due sembreranno solo manichini. Va indagato questa fatto. Se anche li metti sul water tre, uno sembrerà più vicino, diciamo, all'atto umano, no? Degli altri manichini. Siamo di nuovo davanti a un problema artistico, chiaramente. Il manichino, che è il modello dell'uomo, il nostro modello che fa una cosa che facciamo noi abitualmente. Uh-huh. Quindi Montebelluna, come al solito, all'avanguardia, direi. Su tutto. Ho sempre amato Montebelluna, insomma, è un posto importante. Un altro paese all'avanguardia è San Martino di Lupari, o Lupari, non lo so. E il Mattino di Padova racconta, nel centro del paese, la scelta è del sindaco, strisce pedonali tinte di verde padano. E questo è bello, questo è importante, rappresenta due cose. Primo, intanto ho sentito il vostro TG che diceva che c'è il 26% di macchine che si vendono in meno, sì. Va bene? Quindi il rischio è più basso, quindi il sindaco lo fa furbescamente perché sa che passano meno macchine. In secondo luogo c'è dietro un senso di colpa, di odio anche nei confronti di vecchi e bambini, nel senso che il leghista tende a valorizzare il giovane produttivo, non ha grandi legami con queste sciocchezze tradizionali perché non ha neanche eritagno, il posto su sciocchezze lo sa anche lui, per cui in realtà cerca di far secchi quelli più deboli, le fasce più deboli, e un modo per farli secchi è impedirgli di attraversare la strada ragionevolmente, perché è chiaro che con delle strisce verdi, soprattutto in penombra, non si vede, la parte verde già prima. Quindi è una strategia. Una strategia, in certi casi certi leghisti africani lo stanno applicando alle zebre, sì. E quindi si mimetizzano quindi nella savana, giustamente, perché sono verde militare. Ho capito. Davide, anche qui nella prossima notizia l'elemento artistico entra con prepotenza. Il secolo XIX, siamo alla Spezia, il titolo "Gelosa dei nudi di donna ritratti dal marito" è lite. È arrivata ad aggredire, e non solo verbalmente, il marito perché è invidiosa dei nudi di donna dipinti su tela dal marito. Questa è decisamente artistica per vari motivi. Intanto la signora ha ragione, perché quell'uomo alla Spezia faceva il furbo. È la stessa cosa che dice lei, in effetti. Seconda cosa, però, faceva il furbo anche Klimt, il grande pittore Gustav Klimt. Si scoprì a un certo punto che disegnava le signore prima nude, poi ci metteva sopra il vestito. Come a prendersi beffe del marito che commissionava il quadro elegante della signora che poi appendeva in salotto. La signora diceva: vado a farmi fare il quadro da Klimt. Sì. E i due facevano ben altro a simboleggiare ciò che facevano. Lui infatti le dipingeva nude e poi ci faceva i vestiti sopra. Fantastico. Vedi quanto è avanti il nostro spezzino. Lui è avantissimo. Gli manca di farti vestito sopra, che è spezzino, ma però era sulla strada. Le ultime due notizie, la cronaca di Piacenza, la libertà, questo è già il titolo, racchiude un mondo. Giovane piacentino ruba 200 euro a un marocchino, viene bloccato da due albanesi. Questo sì, direi molto interessante. Piacenza è sempre stata una città, ce lo insegna anche Bersani, diciamo, all'avanguardia. Ho capito. Ma sono cose che possono succedere a New York. La perfetta invece, integrazione, quella. Sì, l'integrazione, la città cosmopolita, il mondo, la polis, l'unità. Intorno al tema del denaro si ricostruisce un'identità. In questo caso è un grande esempio di come il denaro non vada disperso male. Insomma, quindi l'albanese giustamente si integra picchiando un italiano e che aveva rubato un marocchino. Il denaro non guarda in faccia a nessuno. Bravo. Ultima notizia, il titolo, siamo a Vicenza, esasperato dalle vuvuzela sfascia al bar con l'auto. Ha fatto bene. Appunto, non vuoi aggiungere altro, immagino. No, questo è giusto, insomma, questo avrebbe fatto, insomma, ha sfasciato anche l'auto, però. Quindi c'è tutto un discorso sulle assicurazioni, sui finti incidenti, che non ti voglio far qui perché sarebbe troppo lungo, però è una relazione tra il Sudafrica, la vuvuzela, questo suono da zanzara, e le assicurazioni delle automobili, che mi sfugge in questo momento, ma poi ci pensiamo. La cronaca locale come emblema dei massimi sistemi, un grazie, esatto, a Davide Riondino, che ha fatto una fermata provvisoria qui a Radio 24, a Mine Vaganti, ma fermata provvisoria anche il titolo del suo spettacolo questa sera, Tappa a Fondi. Ciao David, grazie. Ciao, Federica, presto, ciao. Mine Vaganti. Mine Vaganti, la cronaca locale, usiamo la cronaca locale per andare a cercare chi ha idee, che idee curiose, perché paradossalmente è proprio dalla cronaca di provincia dove a volte si trovano nuove tendenze. Siamo a Genova e il titolo preso ancora dal secolo XIX, come giocare in borsa tra un caffè e un aperitivo. Il trading a Genova è una sorta di numero zero, una sperimentazione a livello nazionale ed è stata proprio scelta Genova come città dove aprire un trading caffè. Che cos'è? Perché Genova e come funziona? Lo chiederemo al suo ideatore. Diamo il benvenuto ad Andrea Tempofosco. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, benvenuto a Radio 24. Qui si parla tanto di economia, ovviamente, e quest'idea di collegare l'economia a un caffè, a un tramezzino, ci piace. Da dove nasce? A cosa ti sei ispirato? Beh, sai, innanzitutto, sotto certi aspetti questo è il mio lavoro. Io da diversi anni che sono amministratore delegato di una SIM collegata al mercato, siamo specializzati nel trading online, e già nel 2000 avevamo lanciato un'iniziativa nuova, riservata però a professionisti del settore, creando delle sale trading a disposizione dei clienti dove possono ancora oggi lavorare insieme, operare in appositi locali dotati di strumenti professionali per il trading. Andrea, anche se siamo a Radio 24, vuoi spiegare che cos'è il trading per chi magari appunto sta passando sulla nostra radio per caso, non è un normale ascoltatore o un giocatore di borsa, per delucidarlo un attimo? Certamente, il trading dà la possibilità, grazie alla tecnologia, grazie a internet, grazie a un personal computer, di poter essere collegati in diretta, in tempo reale con la borsa e poter comprare e vendere strumenti finanziari. Diciamo che in questi ultimi anni questo tipo di attività ha avuto un notevole sviluppo grazie allo sviluppo di internet e grazie anche allo sviluppo delle attività finanziarie collegate a internet. E tutta questa attività che uno si può fare appunto col suo computer stando a casa o in ufficio, tu hai deciso di traslarla, di trasportarla in una sorta di caffè, in una sorta di bar? Sì, perché vedi, quello che manca è la possibilità di avere un contatto umano, cioè internet è fondamentale, importantissimo e utilissimo, ma alla fine isola. Quello che ho voluto ricreare è dare la possibilità alle persone interessate alla finanza di avere un luogo di ritrovo dove potersi incontrare, scambiarsi pareri, opinioni e avere anche a fianco personale esperto che possa essere di aiuto nelle loro scelte operative. Il tutto potendo tranquillamente sedersi un tavolino, prendersi un caffè piuttosto che un aperitivo, o nella pausa pranzo mangiare qualcosa e seguire quelli che sono i loro investimenti. Ho capito, ma quindi è un locale pubblico, io posso anche entrare solo per prendere una bibita, per esempio? esempio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che è un locale aperto a tutti, naturalmente riteniamo che le persone che abbiano un interesse specifico per la finanza siano i più diretti interessati. Quello di Genova naturalmente è un esperimento, noi lo chiamiamo questo numero zero, se poi l'iniziativa avrà successo e i primi giorni devono dire che ci confortano molto, vedremo di esportarla sul territorio nazionale. Ecco, perché Genova? Genova perché è la sede della società, della Millennium Sim, società che è stata fondata nel 2000 a Genova. Ho capito. Quindi era logico partire da Genova. Poi teniamo presente che Genova ha una cultura finanziaria molto forte, ecco, la borsa più importante a livello nazionale fino al dopoguerra era Genova, quindi insomma, c'è una forte interesse. Andrea, ma sei entrato facendo finta di essere un cliente, di cosa parlano gli utenti? Nel senso, il clima è quello del bar o comunque il clima rimane quello un po' serioso, come uno può immaginarselo, guarda, della sala borse, per esempio? Sotto certi aspetti si è ricreato il clima di quelli che erano i borsini delle banche di una ventina di anni fa. C'è un luogo dove entrano persone, innanzitutto vedono subito quello che è la quotazione, quindi una ricerca. All'interno della sala abbiamo 9 schermi, 52 pollici, quindi con tutta l'informativa finanziaria, quindi il primo occhio è rivolto alla ricerca della quotazione che più gli interessa, e poi con estrema, diciamo, semplicità e tranquillità si cerca di mettersi in sintonia con altre persone che sono all'interno del locale, giusto per capire quello che è l'andamento della giornata, cercare di capire se ci sono delle operazioni da fare, se c'è qualche titolo nuovo, qualche notizia. Ecco, il ruolo fondamentale è un ruolo anche riservato alle notizie. Abbiamo 2 canali satellitari che ci danno in tempo reale notizie economiche, notizie politiche, quindi insomma un vero punto di riferimento e di aggregazione. Ok, sperando di non perdere tutto proprio mentre sei lì, che ne so, che stai mangiando un toast, perché l'effetto potrebbe essere non piacevole per gli altri clienti, immagino. Questo è legato al buon senso delle persone. Naturalmente la borsa è una cosa seria che va presa in modo tranquillo, ecco. La speculazione eccessiva è sempre un male. Certo. E vuoi darci l'indirizzo esatto per chi fosse in zona e volesse dare un'occhiata? Noi siamo in Genova, in pieno centro, in via San Lorenzo, proprio di fronte alla nostra sede, che è in via San Lorenzo 12. È facile da riconoscere, c'è l'insegna Trading Caffè. Assolutamente, Millennium Trading Caffè. Perfetto, grazie davvero Andrea Tempo Fosco, la mina vagante che ha avuto questa idea. Ciao e buona domenica. Grazie mille. Mia bella Madonnina, che te brilla da lontano, tutta d'oro e piscinina, te domina quella, su tati sempre la vita. Un classico della canzone milanese in una contaminazione di Eugenio Bennato, e ci piaceva usare questa contaminazione, sì, per lanciare la prossima mina vagante. Un artista, si chiama Mirko Nani, ed è l'ideatore, insieme a un collega studente, dico adesso mi sfugge il nome ma ce lo darà lui fra pochissimo, di una mostra, si intitola Pimp My Mary, una mostra che si tiene a Carrara, sta avendo anche un discreto successo, qualche polemica attorno all'iniziativa, perché l'idea è proprio quella di rivisitare statuette della Madonna, statuette che sono arrivate rivisitate da tutto il mondo, qualcuno si indegna, ma la loro non voleva essere una provocazione, anzi voleva essere una sorta di denuncia, perché la spiritualità è qualcosa di personale, e loro così erano un po' stanchi di vedere la spiritualità resa mercato dalla vendita di queste Madonnine tutte uguali. Do il benvenuto a Mirko Nani. Ciao Marco. Ciao. Mi è sfuggito il nome del tuo collega, se lo vogliamo ricordare subito per rispetto del, appunto, dell'altro 50% di Mina Vagante. Sì, l'altro collega è Marco Pedri. Voi siete studenti dell'Accademia? Noi siamo studenti dell'Accademia delle Arti di Carrara e facciamo il biennio qua, all'Accademia, insomma. Ecco, e vi siete inventati questa strana cosa? Ci vuoi spiegare la genesi? Diciamo praticamente ci siamo ideati questo progetto e tutto è partito dalla proprio, come dicevi giustamente te, dall'esigenza proprio di comunicare un forte dissidio e distacco dalla commercializzazione dell'icona in quanto tale, proprio in questo caso proprio dell'icona religiosa, no? E appunto Pink My Mary è proprio quello che dice il termine stesso, no? Elaborare, fondamentalmente pimpare la Madonna. Noi abbiamo scelto la Madonna proprio perché è un elemento abbastanza forte nella nostra religione, no? Quasi diciamo più di Cristo fondamentalmente, in quanto la nostra religione cristiana in Italia diciamo è praticata forse più da mariani che da cristiani veri e propri. E diciamo che questa icona della Madonna nel tempo e nello spazio ha diciamo mutamenti di ogni genere, no? Basta pensare anche qua nella vicina città di Loreto che abbiamo anche noi una Madonna nera, no? che tutti i credenti vanno ad adorare abitualmente, ecco. No, scusami se t'ho interrotto. Di fatto voi avete preso una statuetta di marmo di Carrara? Noi abbiamo preso, diciamo, non una statuetta di marmo di Carrara, ma bensì una statua in gesso, perché comunque essendo un evento del tutto indipendente, autoprodotto e autogestito, il marmo insomma ha dei costi effettivi, anche nella spedizione ha un peso, quindi, bene o male. Abbiamo preferito anzi il materiale di gesso, anche perché è più facile da customizzare, ecco. E sì, anche da spedire fondamentalmente. E l'avete spedita a chi? Sì. Non ho capito, scusa. Le avete spedite a chi queste statuette? Allora, fondamentalmente il nostro progetto è partito con tramite i social network, soprattutto tramite Facebook, e comunque chi ci vuole contattare, vuole vedere qualcosa su di noi, può andare tranquillamente su Facebook e cercare Pink My Mary, come un appunto un'idea. E praticamente abbiamo ricevuto tantissimi consensi sul nostro progetto, ovvero la customizzazione di Madonna in gesso. Noi abbiamo messo a disposizione 80 Madonne e ci sono state recapitate tantissime idee tramite mail, delle quali abbiamo dovuto fare addirittura una selezione. Noi pensavamo che il nostro progetto rimanesse qua, insomma, in zona, bene o male, in Italia, ecco. Ma in realtà ha avuto una eco ancora più ampia e addirittura siamo arrivati a dover spedire delle Madonne fino in Messico, in Australia, oltre che chiaramente nei paesi dell'Unione Europea, ecco. Quindi avete mandato queste 80 statue di gesso e vi sono ritornate dopo qualche settimana travestite, camuffate, decorate, quale può essere il giusto termine? La parola proprio customizzata è il termine più adatto, fondamentalmente, comunque rielaborate, ecco. E ci sono arrivate in tutte le salse, perché noi praticamente quello che abbiamo richiesto agli artisti, bene o male, chiunque volesse partecipare a questo progetto, era nient'altro che un'idea testuale, fondamentalmente. Noi non ci siamo basati assolutamente sulla componente artistica effettiva delle persone che partecipavano, ma bensì sul concetto stesso che volevano rappresentare. Quindi anche noi avevamo, diciamo, una sorta di stupore ogni volta che avevamo un pacco che ci tornava indietro, ecco. Mine Vagante. Stiamo parlando di una mostra Pimp My Mary, perché insomma il ramo artistico è per fortuna è pieno e vivace per quello che riguarda le Mine Vaganti, e rimarrà aperta fino al 3 agosto, poi riaprirà dal 20 agosto fino al 5 settembre. È stata prorogata, è stata ideata da Marco Pedri insieme a Mirko Nani, che è qua con noi. Allora Marco, abbastanza velocemente ci puoi raccontare alcune delle madonine che avete ricevuto? Assolutamente. Allora, noi abbiamo ricevuto queste Madonne e tra queste volevo ricordare per esempio la Madonna incinta, che è una delle trasformazioni più mimetiche che abbiamo qua nella mostra, ovvero diciamo il caso è stato proprio rievoluzionato al completo fondamentalmente, e quindi insomma diciamo che è stata una delle più belle che abbiamo ricevuto. Poi la Madonna kamikaze con tanto di cintura esplosiva, kefia e detonatori. E poi per rimarcare la commercializzazione, il nostro concetto, abbiamo ricevuto tantissime chiaramente Madonne, tra le quali volevo ricordare la Madonna Barbie e addirittura quella rapper. E assolutamente diciamo che comunque sia sempre sotto questo punto di vista anche la Madonna con una testa dentro il televisore toccata, ecco. E diciamo con il titolo Amici di Maria, ma il beh, insomma il gioco di parole qui è ovvio, e però non avete paura di offendere qualcuno, nel senso che la Madonna Barbie in effetti può offendere una sensibilità religiosa, non credi? Ma diciamo che comunque sia basandosi sulla superficialità di quello che un'icona ci vuol comunicare, probabilmente sì, ma noi quello che ci aspettiamo diciamo comunque sia da questa mostra non è solamente un impatto così visivo e basta, noi quello che stiamo cercando di fare è una sorta di ricerca a scopo sociale, addirittura a tutto campo, perché da quello che doveva essere Pink Floyd sta diventando qualcosa di veramente incredibile, quasi un prodotto di ricerca fondamentalmente, perché comunque sia noi siamo curiosi di indagare quello che come le persone in tutto il mondo possono vedere diciamo quest'icona, ecco, sotto i nostri occhi, come per esempio sono arrivate delle Madonne messicane che hanno praticamente rimarcato quello che sarebbe il hanno voluto rappresentare la cultura messicana con la mitologia preispanica, proprio per combinare queste due culture, no? Fondamentalmente diciamo quello che è successo in Messico è stato dopo l'invasione in Spagna, quindi la religione cattolica proprio che si è fatta propria di quel territorio, e qui loro hanno voluto riproporre diciamo una sorta di ribaltamento del concetto, e questa è stata una cosa molto interessante che ci ha fatto proprio partire per proprio che ha fatto in modo che il nostro progetto potesse prendere una piega completamente differente da quella che è partita diciamo. Grazie davvero Marco, posso aggiungere un'ultima cosa? Sì? Dimmi. Volevo dire che noi praticamente siamo aperti a qualunque tipo di richiesta, diciamo che comunque sia chiunque vuole contattarci tramite il nostro sito web e Facebook, basta che cerca Pink My Mary, e vorremmo dire che dal prossimo anno noi il nostro intento è quello di riuscire ad avere a noi una Madonna perlomeno da ogni nazione del mondo. Quindi perlomeno diciamo che questo è il nostro intento, proprio come livello di ricerca e di studio, è quello che vorremmo riuscire ad arrivare. Tu Marco hai 24 anni? Sì, 24 anni. Insomma, quindi si può essere giovani, avere delle idee, che poi queste idee insomma possono essere anche discutibili, però credo che l'importante sia osare. Voi lo avete fatto, grazie davvero, ciao Marco, grazie buona domenica. Mille. Ciao. Papà è tutto rosa, più di una rosa rosa. Barba mamma così nera, più di una rosa nera. Barbitulle giallo giallo, barba lala verde come un fico, barbottina. Era il 1975 quando Roberto Vecchioni ha scritto e cantato la sigla dei Barba Papà. Simone, sei mai stato accolto o introdotto tramite la sigla dei Barba Papà? Pronto Simone? Pronto? Pronto Simone, ciao. Sì, ciao, scusami. Ti è piaciuta come sigla quella dei Barba Papà? Sì, vabbè, mi sembra adeguata. Mi sembra adeguata. Allora Simone, insomma, definirti una mina vagante no, non può essere, però è curioso che si diventa protagonisti, per esempio, della cronaca locale, perché si è un super genitore. C'è stato il raduno in questi giorni all'Acqua Fan di Riccione, mi pare, a Oltremare, insomma, sì, nei sì, parchi, sì. E delle famiglie numerose italiane. Per essere famiglia numerosa credo sia sufficiente, adesso tra virgolette sufficiente, avere 4 figli. Tu Simone insieme a tua moglie che è Francesca avete 9 figli, siete una super famiglia. Quantitativamente sì, poi per il resto siamo una famiglia abbastanza normale. Ecco, ma quando dirai siamo una famiglia abbastanza normale, la gente come ti guarda? Sorride, pensa che tu li stia prendendo in giro o no? Ma la gente rimane sempre abbastanza colpita quando ci vede tutti insieme, però poi io penso che l'immagine che possiamo dare è che insomma ce la si può fare ad avere anche una famiglia di 9 figli, insomma. Io non sono Superman e mia moglie non è Wonder Woman, ma siamo due persone normali che hanno scelto questo tipo di vita, insomma, e quindi hanno scelto deliberatamente di farsi anche carico di tutti. Certamente i pesi che questo tipo di scelta comporta, ma anche delle inevitabili, anzi delle gioie, insomma delle soddisfazioni che viviamo ogni giorno per la nostra famiglia. Insomma, vorrei farti qualche domanda seria, ma prima mi viene qualche domanda banale, ma credo che domande che sì, tutti ti facciano. Che ne so, ti ricordi i compleanni di tutti? Allora, le date di compleanni, sì, devo dire la verità che a volte quando mi chiedono la data di nascita faccio, faccio fatica, ecco. Nel senso che mi è capitato più di qualche volta di dover far mente locale e ricominciare mentalmente dal primo, poi ci arrivo. Sì, eh. Ma... però devi ripercorrere. Moglie è più pronta su queste cose. Devi ripercorrere tutte e nove. Devo ripercorrere un po' di storia e poi mi viene in mente tutto. Ecco, e con 9 figli, quindi siete in 11, come vi muovete? Cosa avete, 2 auto o... Abbiamo 2 auto, uno di quei pulmini che, con cui di solito si vedono trasportare i muratori per andare ai cantieri, per dire, sì. Un furgoncino 9 posti, uh-huh. E una automobile, anche quella 7 posti. E di supporto. E esatto. Cos'è successo in questi 2 giorni? Vi siete trovati tra famiglie numerose per cercare, adesso mi viene una brutta parola, solidarietà reciproca, non credo, è una sorta di confronto, perché ci sono comunque difficoltà comuni e forse si cercano strategie comuni per superarle? Allora, quello che è successo qui oggi e che continuerà anche domani è un'assemblea dell'Associazione Italiana delle Famiglie Numerose, perché pochi lo sanno, ma esiste un'Associazione delle Famiglie Numerose che ha fatto qui una delle sue annuali riunioni, in cui ovviamente oltre a discutere di tutte le argomentazioni di bilancio sociale eccetera eccetera, si è visto un pochino, si sta affrontando un pochino qual è lo stato della situazione nel nostro paese in quanto a sostegno della famiglia, diciamo, che ovviamente è un tema che a noi famiglie numerose è molto caro. Insomma. E devo dire che abbiamo visto certamente delle situazioni virtuose come il Comune di Parma, la provincia di Trento, che hanno messo in atto delle politiche sociali che tengono molto presente le esigenze della famiglia in generale e quindi anche di conseguenza a maggior ragione della famiglia numerosa. Però in generale i rapporti con il governo e i rapporti con le istituzioni sono abbastanza deludenti. Ma perché non c'è attenzione, non c'è sensibilità o comunque siete così poche che non avete un peso? Ma diciamo non c'è molta attenzione alla famiglia in generale. Basti pensare alla promessa del quoziente familiare che sarebbe una cosa utilissima a qualsiasi famiglia, diciamo, e che diventa per noi famiglie numerose qualcosa di particolarmente importante e che è una promessa dell'attuale governo che è stata completamente disattesa. E, diciamo che, riferendomi al tuo termine iniziale, solidarietà, quello che noi non tanto chiediamo, ma quello di cui sentiamo particolarmente la mancanza è un sostegno alla famiglia più che una solidarietà, perché il quoziente familiare, per esempio, la fiscalità basata sul quoziente familiare, a mio avviso è un fatto di giustizia più che di solidarietà. Mm-hmm. E tu, Francesco, che lavoro fai, se posso permettermi di chiedertelo? Mia moglie? No, tu. Ah, io sì. Simone, scusa, Simone, ho sì. Confuso il nome un attimo. Allora, io sono un commerciante, lavoro nel settore dei preziosi, diciamo, e grazie a Dio il mio lavoro mi consente di avere un reddito per il quale non ci manca assolutamente nulla, anche se comunque dobbiamo fare i nostri conti con molta attenzione e vi assicuro che alla fine dell'anno non rimane assolutamente nulla di risparmiato, ma insomma viviamo bene, insomma, direi. Non ci manca niente, ecco. A casa tua c'è mai silenzio? Molto raramente. Ci credo. Molto raramente. E quando c'è provoca un certo senso di ansia perché non ci siamo abituati. Francesco, complimenti, perché insomma è una scelta difficile, ma una scelta virtuosa, quindi complimenti a te, a tua moglie e Simone. Continuo a chiamarti Francesco, ma perché mi confondo con tua moglie, scusami, con Francesca e Simone, e anche ai 9 figli, perché insomma credo che anche loro ci devono impegnare, no? Anche per loro ci saranno dei sacrifici, poi ripagati da mille soddisfazioni, però vuol dire far parte di un progetto e trovarsi dentro a questo progetto, quindi, quindi insomma devi mettere anche del tuo, indubbiamente. Certamente. Buona vacanza, visto che siete lì a Riccione. Ciao, salutami tutti. Ti ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao Simone, ciao. Il raduno delle superfamiglie a Rimini nel 1500 da tutta Italia, e con noi c'era chi detiene il record, appunto Simone e Francesca da Padova con 9 figli. Mine vaganti. Vi sentite mine vaganti? Beh, potete scriverci, potete proporci la vostra storia, potete farlo attraverso il nostro indirizzo mail, minevaganti@radio24.it. Questo è quello che dice anche il promo durante la settimana. Siete in tanti quelli che vi fate vivi. Oggi abbiamo scelto Francesco, la storia di Francesco, che mi ha scritto dicendo: non so se posso ritenermi una mina vagante, ma io quello che faccio da sempre è quello di cercare di portare un qualcosa di etico nel mio lavoro. Il mio lavoro è quello del gioielliere ed è stato il primo e l'unico attualmente in Italia a portare sia i diamanti etici e da poco anche l'oro etico. Do il benvenuto a Francesco Belloni. Ciao Francesco. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora, è il tuo lavoro, la tua professione, tu hai una gioielleria qui a Milano, giusto? Sì, insieme a mia sorella e mio papà, che ha aperto il negozio nel 55 a Milano, gestiamo questo negozio. Ecco, è un negozio. Il negozio vuol dire devi cercare di vendere il più possibile, però è scattato qualcosa in te? Sì, beh, diciamo che qualche anno fa, io prima di tutto nasco sono un cliente del mercato ecosolidale con mia moglie, abbiamo fatto un gas, eccetera, eccetera. Quindi, essendo vicino all'esigenza appunto di acquistare dei prodotti magari un po' diversi, che vengono prodotti in modo da non pregiudicare i diritti delle persone, anche un po' la tutela dell'ambiente, ho avuto l'esigenza anche nel mio lavoro, che sono appunto i preziosi, di creare un mercato alternativo che in Italia non esisteva e tuttora appunto purtroppo siamo gli unici a farlo. Ecco, ma cosa vuol dire cercare diamanti etici o oro etico? Ma semplicemente i diamanti è stata una ricerca abbastanza lunga, perché il mercato italiano è monopolizzato da una sola, diciamo, grande azienda, che è un'azienda che si chiama De Beers. Sì. E quindi a me questo, diciamo, il modo di comportarsi della De Beers non andava bene, perché appunto in Africa c'era il problema dei diamanti di sangue. Io ho cercato qualcosa di alternativo e ho trovato due miniere del Canada che certificano l'origine dei diamanti che vengono estratti appunto nelle loro miniere, mantenendoli separati dal mercato tradizionale e certificandone proprio l'origine. Cioè i diamanti Ethical Diamond, è possibile sapere anche il nome della miniera da dove arrivano, e quindi essendo certi che vengono dal Canada, un paese che insomma, come tutela dell'ambiente, anche tutela dei lavoratori, anche delle popolazioni indigene tra l'altro che lì sono presenti, è molto avanti, no? E quindi sapendo che vengono da questo paese, io ritengo che siano diamanti più etici degli altri. Mm-hmm. Quindi insomma è certificata la provenienza e soprattutto è anche certificato che vengono rispettati tutti i diritti dei lavoratori. Esattamente. Ecco, e poi a un certo punto ti sei reso conto che mancava una cosa simile anche nel sì, commercio dell'oro. Ecco, nell'oro è stato un po' più difficile, anche perché appunto il mercato è in continuo sviluppo, no? Quindi le esigenze proprio del fair trade, diciamo anche internazionale, sì, sono sempre più alte, e anche il consumatore è più esigente, quindi nascono proprio delle nuove realtà, come per esempio questa in Colombia, in cui una cooperativa, si chiama Corporación Oro Verde, ha deciso di mettere insieme tante piccole miniere familiari, imponendo però che in queste miniere non venga usato né cianuro né mercurio per l'estrazione, cosa che viene usata invece normalmente, e che quindi praticamente l'oro viene setacciato come si faceva 300 anni fa, e da parte di questi minatori che fanno un lavoro duro, però è una cooperativa, quindi le miniere sono loro. Quindi loro fanno lo sforzo, ma ne hanno anche i proventi direttamente, senza che questo pregiudichi la loro salute e anche la salute dell'ambiente circostante. Infatti queste miniere si trovano nella regione del Choco, che è un parco naturale, e quindi sarebbe stato impossibile coniugare le due cose, no? Ecco, insomma, Francesco, non sei un benefattore dell'umanità, ci tieni anche a dirlo, no? Nel senso che tu fai il tuo lavoro, però lo vuoi fare con una certa dignità e con un certo rispetto anche per tutta la filiera, perché alla fine tu vendi un diamante che però appunto ha una storia, vendi dell'oro che ha una storia e vuoi che questa storia sia accompagnata da segni importanti per chi ci deve lavorare. E diamo il sito della tua gioielleria, così dove si possono trovare anche tutte le informazioni su questi prodotti. Il sito è www.ethicaldiamond.com oppure www.gioielleriabelloni.com, entrambi arrivano allo stesso sito. Grazie Francesco, e insomma sei stato promosso come mina vagante. Grazie a voi e buona serata. Ciao, buona vacanza. Ciao. Ciao. Puntata si chiude con una mina vagante musicale. Andiamo alla ricerca di musicisti che nella loro storia fanno qualcosa di particolare, qualcosa di curioso. Quello che ascoltate è una improvvisazione di violino sulla colonna sonora del Gladiatore. E lei in questo momento si trova in Lituania per le vacanze, la disturbiamo mentre è là, ma è l'Italia il suo palcoscenico. Lei che da violinista sta portando avanti tantissimi progetti da sole. Tra l'altro uno in particolare dove sul palco c'è lei e un'orchestra invisibile. Diamo il benvenuto alla violinista e performer Saule Chilaite. Ciao Saule! Hola Federico, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Che questo è un classico italiano con accento lituano, giusto? Assolutamente sì, mi fa molto piacere di sentirvi direttamente dal cuore della Lituania, che è la mia città natale, Kaunas. Saule, come mai l'Italia? Come sei arrivata qua? Dunque, l'Italia è stato il mio grande sogno da quando ero piccola, perché l'ho conosciuto attraverso racconti, attraverso i viaggi che ho fatto con la mia mamma. Con la mia mamma Gragina siamo andati a visitare sicuramente da quando, mentre ero adolescente, le diverse città turistiche italiane come Roma, Pompei, Napoli, Venezia, e da lì è partito questo amore a prima vista. E quindi, visto che sognavo veramente continuamente anche da adolescente, dicevo che appena compierò 18 anni voglio andare a studiare in quel posto meraviglioso che è l'Italia. E qui ti racconto, se posso, un velocissimo aneddoto. Certo. Mentre avevo 17 anni siamo andati a Pompei, siamo saliti sul Vesuvio, e mi ricordo che la nostra guida del nostro gruppo turistico ha comprato il vino tipico locale che si chiama Lacrima di Gesù. Abbiamo brindato tutti quanti su in alto sul Vesuvio e lì l'ha detto: ora tutti quanti scrivete un vostro desiderio, mettete dentro all'interno della bottiglia e la lanciamo all'interno del cratere. Ok, cosa che non si dovrebbe fare, questo non lo diciamo, però lì vi è scappato. Okay. Va bene, ok. Ma per i sogni questo è l'altro, Federico. Te lo concediamo così. E quindi io ho scritto: l'Italia sì, la mia seconda patria, vorrei vivere in te. E l'abbiamo lanciato dentro. Sì. E pensa che dopo un anno ero lì a studiare al Conservatorio di Brescia. Vedi che basta desiderare fortemente, i sogni si avverano. Un sogno che si è realizzato. Ma la cosa bella di Saule è che, insomma, con questo violino in mano tu fai veramente di tutto. È bello come utilizzi questo strumento classico sul palco. Tu balli con quel violino, ti muovi, non stai ferma un attimo. Cosa vuol dire per te fare spettacolo e fare musica con un violino in mano? Fare la musica è esprimere tutto quello che ho dentro di me. Violino io lo chiamo il mio amore di una vita intera, veramente. Non riesco a separarmi da lui da quando praticamente sono nato. Ho iniziato a suonare all'età di 4 anni e ora ne ho qualche decina in più. E suonare vuol dire di comunicare con il pubblico. Fortunatamente ho incontrato delle persone veramente incredibili, come soprattutto il mio produttore Charlie Cartisano, che mi ha aiutato a trovare, diciamo, le vie di questa espressione, perché io provengo dal mondo di musica classica e lui proviene dal mondo di musica moderna, di musica leggera dei nostri giorni, chiamiamo così. E incontrando lui nel 2000 l'abbiamo unito questi due mondi per avvicinare anche il pubblico. È quello un po' più lontano dalla musica classica, quindi anche il pubblico pop, diciamo. Esatto, il musico. Esatto, unire questi due mondi, di musica moderna, di musica leggera, di musica classica, e soprattutto avvicinare anche il pubblico un po' più profano alla musica classica, che comunque è stupenda e bellissima, però a volte è un po' troppo statica e conservatrice e tiene lontani tanti giovani soprattutto. Io ho sempre voluto di fare questo avvicinamento, che adesso comunque lo stanno facendo in tanti. Mm-hmm. Insomma, è un po' anticipato quella che sarebbe diventata una tendenza. Beh, noi abbiamo cominciato tendenza. A farlo nel 2001. Allora, intanto diamo il sito, che è www.saule.it, dove insomma potete vedere, ci sono anche estratti di questo spettacolo, dove c'è questa orchestra invisibile, che di fatto sono tutti arrangiamenti che hai fatto tu. Sì, esatto. Allora, l'orchestra invisibile è nata un po' per compensare sicuramente il nostro desiderio, Charlie, di avere anche tante persone sul palco, tanti musicisti, però come sapete... In quanto produttore voleva anche risparmiare, giustamente. Beh, diciamo che lui è un produttore molto generoso, lui per il nostro progetto farebbe veramente di tutto, però come sapete sicuramente tutti quanti per la musica nei nostri giorni, in generale per l'arte, si destina sempre meno, e quindi noi vogliamo suonare, io voglio suonare non una volta al mese, ma fare almeno 150 concerti all'anno, per cui abbiamo dovuto sia per le questioni economiche creare questa orchestra invisibile, ma anche per la sopravvivenza umana, non so se si può esprimere così sì, in sì, italiano, insomma, eh. Diciamo che convivere con tante persone in un gruppo e lavorare a stretto contatto è sempre molto difficile, infatti non ci sono tanti gruppi che durano per molti anni, uh-huh. E quindi insomma... noi abbiamo preferito di creare questa orchestra invisibile dove tantissimi strumenti come pianoforti, le tastiere, i violini, le viole li registro io, li creo arrangiamenti e registro io, le percussioni, altri basi crea Charlie, e poi di altri strumenti come arpe, fisarmoniche, ci avvaliamo delle collaborazioni dei nostri carissimi musicisti, amici, artisti che hanno qualcosa in più di altri musicisti, che hanno un fuoco nel cuore e riescono a interpretare i brani in una maniera personale. Uh-huh. E così è nata l'Orchestra Invisibile, che mi accompagna in tutti i miei spettacoli. Comunque un'orchestra con tutti gli strumenti suonati dal vivo, live, anche registrati. Saule, complimenti davvero, perché insomma poi la tua storia, anche mille aneddoti, diventerà anche un fumetto in uscita, mi pare ad ottobre, con un autore d'eccezione, a settembre, Antonio Serra, che ti ha trasformato in un fumetto, la tua storia ha ispirato i disegni di Massimo Fantuzzi. Ricordiamo ancora saule.it, ci salutiamo ascoltando un'improvvisazione su un tema di Vivaldi, ok? Esatto, ti ringrazio tanto Federico. Ciao Saule, buona un vacanza. Un grande saluto, buona estate a tutti gli ascoltatori della tua trasmissione. Grazie, ciao Saule. Ciao, ciao, buona serata. Usiamo Vivaldi come titoli di coda per questa puntata di Mine Vaganti. Un grazie a Margherita Ina, che ha partecipato alla costruzione dell'intera puntata. Un grazie a Paolo Corleoni alla parte tecnica e a Jessica ai telefoni. Mine Vaganti @radio24.it se volete farvi vivi durante la settimana. Vi ricordo che la puntata la potete riascoltare in podcast dal sito radio24.it. Ancora buona domenica da Federico Taddia. Ciao!